A bordo campo di Dario Ricci. معمر القذافي ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه كما فعل الرصاع. معمر القذافي ليس رئيس, هو قائد ثورة. Quella che state ascoltando in sottofondo è la sua voce, la voce di Muammar Gheddafi, il colonnello protagonista della storia della Libia a partire dal 1969, l'anno della rivoluzione, e protagonista anche di delle tumultuose vicende di questi giorni. E oggi allora vi raccontiamo una storia che lega l'attualità politica libica e internazionale alla storia del calcio. Perché? Perché il nostro ospite è un campione del mondo del 1982 che con la Libia ha un legame forte d'amore e d'affetto. Gheddafi, il Saladino, l'Africano, questi erano alcuni dei soprannomi di Claudio Gentile, 58 anni, che è entrato nella storia del calcio per quel titolo straordinario di Spagna 82, per le sue marcature contro Maradona e Zico, tanto per citarne un paio, ma anche per quel legame affettivo straordinario che lo lega a quella Tripoli dove Gentile proprio nacque e ha trascorso i primi 8 anni della sua vita. E allora, benvenuto a Claudio Gentile, grazie per essere ospite di Radio 24 e di A Bordo Campo. Ma grazie, buonasera. Perché il libico? Perché Claudio Gentile, che è stato uno dei grandi protagonisti della nazionale azzurra del Mondiale 1982, e come fai a scordarti le sue marcature su Maradona e Zico, tanto per dirne un paio, è nato proprio a Tripoli, vero? Signor Gentile, ecco, come arrivò la sua famiglia a Tripoli? Ma guardi, mio padre andò giù che non aveva neanche un anno, coi propri genitori, sa, c'era in quel momento, la Libia era, diciamo, una nazione dove era quasi italiana, e molti italiani andarono in Libia. Mio padre è del 28, quindi, e invece mia madre è nata addirittura lì, come sono nato anch'io, quindi siamo... Diciamo che la Libia è un po' la nostra seconda patria, siamo molto interessati a queste cose che stanno succedendo. Non dico che siamo preoccupati, però sicuramente, insomma, c'è un po' di apprensione, perché io sono venuto via che avevo 8 anni, però i miei genitori ci sono stati per 30 anni e quindi conoscono anche delle persone che sono ancora lì a Tripoli, quindi c'è, diciamo, per loro un interessamento diverso dal mio. Tra l'altro, proprio a Tripoli lei scoprì la passione per il calcio, cominciando a tirare i primi calci proprio per le strade della capitale da bambino, da piccolissimo, no? Sì, io andavo a scuola, tra l'altro io abitavo vicino alla chiesa di Sant'Antonio, che c'era il campetto da calcio. Noi italiani ci confrontavamo con i ragazzini libici, quindi era un continuo... diciamo così, rivalità, per modo di dire, nel giocare al calcio, no, di riuscire sempre a vincere contro di loro. Non era facile, mi ricordo che erano molto più smaliziati di noi e quindi trovavamo molto duro con questa gente. E senta, è una curiosità, quali erano i campioni più ammirati del calcio italiano a Tripoli e dintorni in quegli anni? Beh, sa, io quelli che mi ricordo, siccome ero già juventino quell'età lì, mi ricordo tutti i giocatori della Juventus, del Sole, Leoncini, Angiolin, quindi erano dei miti per me, per quella generazione degli anni così, gli anni 60, e quindi questi sono i giocatori che mi ricordo con più ammirazione verso di loro. E senta, come mai poi rientraste in Italia? Noi siamo venuti via nel 61, quindi prima del colpo di Stato di Gheddafi. Mio padre cominciò a intuire qualcosa, che gli italiani non erano più, diciamo, rispettati come lo erano stati negli anni precedenti. Tanto è vero che poi dopo 9 anni ci fu il colpo di Stato, gli italiani vennero mandati via con le valigie, senza nessuna possibilità di poter monetizzare quello che avevano costruito giù in Libia. E questo è stato un colpo molto grosso per i nostri concittadini. E immagino anche dal punto di vista emotivo un colpo grosso anche per lei, che bambino cambiò immediatamente, insomma, città, vita, punti di riferimento, no? Come se lo ricorda quell'addio a Tripoli? Ma guardi, veramente me lo ricordo così, che ero salito su una nave, la cosa che mi ricordo maggiormente è la partenza sulla nave, siamo partiti, siamo arrivati in Italia, in Sicilia, comunque pur essendo non adulto perché avevo 8 anni, però mi ricordo le cose, insomma, quelle che più c'è, la scuola, la chiesa, l'oratorio, queste vie dove giocavamo con questi ragazzi, questi bambini del posto. E poi però non mi è più stata data la possibilità per poter rivedere i posti della mia infanzia, ecco. Da lì al grande calcio, quale fu il passo decisivo? Beh, guardi, poi mio padre decise di stabilirsi a Como, io ho cominciato a fare un po' tutte le trafile, sono andato al Varese, ho fatto tutte le giovanili e poi da lì sono andato, ho fatto la Serie B, poi sono arrivato alla Juventus e alla Nazionale. Un percorso lungo, ma comunque, insomma, con grande soddisfazione. In tutti questi anni lei ha sempre sottolineato, no, questo suo legame con la Libia, che poi le è valso anche tutta una serie di soprannomi, a sottolineare appunto questo rapporto particolare con Tripoli e con la Libia. Ecco, gli eventi di questi giorni dal punto di vista emotivo che effetto le fanno? No, guardi, io ripeto, sto molto attento a tutti i telegiornali, così per sapere, come ho già detto, per noi, soprattutto per i miei genitori, la Libia è un po' come la seconda patria, perché mio padre c'è stato di più di 30 anni, anche mia madre, quindi sono molto più legati di me, però questa situazione sicuramente ci mette un po' in apprensione, anche perché è un po' la ribellione degli scontenti, purtroppo in quei paesi non c'è una democrazia e la gente penso che sia stufa, si stia ribellando pur rischiando di morire per difendere proprio la propria libertà, ecco. Ecco, in questi giorni, se non sbaglio, ha dichiarato anche che nel caso vi fosse una caduta di Gheddafi, del regime del colonnello, sarebbe pronto e anzi desideroso di tornare in Libia, vero? Come no, l'ho già detto, io come ho detto in precedenza non mi è stata mai data l'opportunità di ritornare, io ho chiesto un paio di volte di poter andare giù e vedere, me l'hanno sempre negata, non capisco perché. Beh, perché il motivo c'è, perché Gheddafi quando andò al potere disse che tutti gli italiani che erano nati a Tripoli erano ritenuti fascisti, cioè io a 8 anni mi sono trovato un'etichetta che non sapevo neanche cosa fosse il fascismo e con questa legge non ho mai potuto rientrare in Libia per vedere i miei posti, tra le altre cose vorrei portare giù i miei genitori, proprio perché ormai mio padre ha 82 anni, mia mamma ne ha 79 e insomma vorrei un po' così regalare questa possibilità a loro di rivedere i posti dove hanno vissuto per una vita, però mi è sempre stato negato, questo lo trovo ingiusto, ecco, proprio nel modo più assoluto. Cosa vuol dire vietare di poter vedere a delle persone che hanno vissuto o sono nate lì? Per me è un'ingiustizia che non ha senso. Beh, è difficile darle torto. Le chiedo ancora, signor Gentile, come ha visto in questi mesi, in questi anni, il governo italiano è stato forse quello tra i più vicini, no, al governo libico e alla stessa figura di Gheddafi. Da questo punto di vista, questa scelta strategica, politica, senza entrare nel merito chiaramente, perché non compete esclusivamente a noi, ma come l'ha valutata, conoscendo un po' la storia della Libia e quello che lei ha vissuto con la sua famiglia in prima persona? Beh, guardi, i rapporti sono dovuti per motivi politici e di interesse, questo è scontato, non è che dico delle cose sproporzionate, nel senso che per una questione, insomma, di approvvigionamento del petrolio, del gas e soprattutto sul discorso degli extracomunitari con questi barconi che vengono da noi, insomma, si è cercato di tenere sicuramente per una questione logicamente anche di interesse i buoni rapporti con Gheddafi. Quando c'è di mezzo il meno peggio credo che nessuno possa discutere, sono sono anch'io d'accordo che forse è stata la scelta migliore, o forse la meno peggio, e questo logicamente. Poi sulle altre cose si può sorvolare, la tenda e varie cose, però noi dobbiamo pensare più al discorso di interesse, di avere buoni rapporti per tanti motivi. Comunque vada a finire questa vicenda che tiene in apprensione tutto il mondo, probabilmente ci sarà anche un calcio libico da ricostruire. Dovesse arrivare un'offerta, si potrebbe far conto anche sulle grandi doti anche di allenatore di Claudio Gentile? Sì, guardi, io l'ho detto anche nei giorni scorsi, io sarei fiero di allenare la nazionale libica, però logicamente con delle condizioni diverse da quelle che ci sono adesso. Ci deve essere proprio una libertà di scelta, possibilità anche di lavorare senza avere interferenze come ci sono state fino adesso. Quindi nel caso si dovesse succedere o dovesse capitare, io sarei ben fiero di allenare la nazionale libica. Basta non essere costretto a convocare Sadi Gheddafi, ecco. Che magari... io ho detto ben questo, senza condizioni e senza compromessi, la libera scelta di poter esercitare la propria professione con i giocatori che meritano di giocare, non chi è, come ha detto lei prima. Anche perché insomma il ragazzo, per carità, la passione per il calcio non si discute, però insomma ormai si può anche dedicare ad altro, diciamo così, lo dico io. No, purtroppo, ripeto, io ho visto tanti allenatori, è andato giù anche Scoglio, però dopo un po' è stato mandato via, perché logicamente chi non era della stessa idea del figlio di Gheddafi non durava molto. Questo non è calcio e quindi non è neanche, diciamo, avere la possibilità a un allenatore di svolgere le proprie idee, le proprie... tipologie di gioco, ecco, tanto per dire. Grazie a Claudio Gentile per essere stato nostro ospite. Negli anni 60 tutto era proiettato verso la pace. Io credo che quanto è adesso nel Mediterraneo ci pone il vincolo di riflessioni su come sarà il mondo nel 2020. Può essere uno scenario negativo, può essere uno scenario positivo. Noi crediamo nelle Olimpiadi perché pensiamo che sia un contributo di civiltà alla pace di questa enorme, fondamentale regione. La voce, l'avrete riconosciuta, è quella inconfondibile del ministro dell'economia Giulio Tremonti. Il riferimento è sempre a quel Mediterraneo in questi giorni scosso dalle vicende libiche e non solo. Ebbene, anche Roma, e soprattutto Roma viene da dire, del Mediterraneo è cuore pulsante, e anche il sogno olimpico di Roma 2020 può essere straordinario impulso per l'intera regione mediterranea, ma anche per l'intera Italia. Proprio in questi giorni Roma 2020 ha cominciato a prendere forma, la candidatura olimpica della capitale, in modo più strutturato, più definitivo. Ci sono stati gli stati generali di Roma, si sono sciolte le riserve sul nome del presidente del comitato promotore di Roma 2020, sarà Mario Pescante, che proprio di a bordo campo è stato recentissimo ospite. Per arrivare a vincere questa candidatura sarà necessario un supporto bipartisan dal punto di vista politico e anche la possibilità di potersi avvalere di risorse economiche e soprattutto di progetti di lunga durata che guardino addirittura oltre il 2020. E allora sentiamo ancora un altro passaggio dell'intervento del ministro Tremonti in occasione proprio degli stati generali della città di Roma. Su Roma la responsabilità è di tutti e l'impegno deve essere di tutti, e deve essere l'impegno a trasformare le difficoltà in opportunità. Deve essere l'impegno, passando attraverso il tempo presente, l'impegno ad allineare il nostro futuro sul nostro grande passato. Questo è il ministro Tremonti, ma quel supporto bipartisan fondamentale per arrivare al successo nella corsa all'organizzazione olimpica è stato garantito anche dal premier Berlusconi. Giorni di polemiche questi ultimi trascorsi intorno alla candidatura olimpica di Roma, dopo il no iniziale del presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo a presiedere il comitato promotore. Ebbene, in occasione degli Stati Generali, quello del premier è stato un appello all'unità in nome proprio della corsa olimpica. Sentiamo Berlusconi. In noi, soprattutto in noi giovanissimi, è ancora vivo il ricordo delle Olimpiadi che abbiamo visto del 1960 e ricordo che segnarono l'inizio del boom economico, e faremo di tutto perché Roma Capitale e la sua candidatura alle Olimpiadi del 2020 rappresentino simbolicamente l'avvio di una nuova grande stagione di sviluppo e di benessere per tutto il paese. Ma Roma 2020 sarà anche una opportunità economica per l'intera Italia, perché è chiaro, un'Olimpiade presuppone un investimento, ma di solito riesce a dare in buona parte quello che chiede nella fase organizzativa. E proprio in merito all'impegno economico dell'Italia intera dietro la candidatura di Roma per i giochi del 2020, ebbene, proprio su questo tema è intervenuto il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Sentiamo. Roma è essenziale non solo come centro culturale, turistico, religioso nel nostro paese, ma Roma è essenziale anche come capitale economica di questo paese. Oggi già Roma dà il 7% del PIL nazionale, ha qui 150.000 aziende, alcune leader molto importanti. Allora io penso che da questo grande progetto di Roma possa venire un volano di crescita non solo per Roma, non solo per il Lazio, ma per tutto il paese. Questo quindi il quadro politico-economico che si sta costituendo intorno alla candidatura di Roma 2020. Gli avversari saranno agguerriti, non mancheranno, l'abbiamo sottolineato tante volte. Ma adesso andiamo a sentire la viva voce di Mario Pescante, vicepresidente del Comitato Olimpico Internazionale, ex presidente del CONI, è stato ospite di A Bordo Campo non più di 15 giorni fa, proprio nella sua veste di vicepresidente del CIO. Ebbene, subito dopo la nomina il nostro Dario Ceccarelli lo ha nuovamente intervistato per capire quali saranno le linee guida che seguirà nel difficile ruolo di presidente del Comitato Promotore di Roma 2020. Sentiamo. Devo dire che è stato più un passaggio di testimone tra Montezemolo e me, nel senso che lui aveva accettato per puro spirito di servizio, e io devo dire che sono stato uno dei sostenitori di questa candidatura dall'inizio. Quindi, poi, essendo un uomo molto pragmatico, dovendo fare sfide nella sua vita imprenditoriale, parecchie sfide, avrebbe aggiunto volentieri anche questa, però ha chiesto delle cautele, delle garanzie che le chiederò anch'io, ma dando tempi diversi però alla politica e anche ai ministri responsabili per risolverli. Parlo dei finanziamenti, parlo di un parere trasversale positivo del mondo politico, parlo del finanziamento con le dati di promozione, capisco che però, intervenire su Tremonti in questo momento e chiedere solamente un finanziamento, lui ha fatto un bilancio delle risposte avute insieme al sottosegretario della Loletta e si è disimpegnato, ma devo dire cappello, l'ho fatto con classe, con stile e comunque dando la sua disponibilità per sostenere non solo la mia candidatura, era presente quando sono stato, come dire, designato, ma anche per lavorare. Lei è un uomo dalle grandi sfide, fu commissario di Torino, Pescara, però le casse sono vuote. Guardi, è un discorso che è già stato fatto dal ministro Tremonti, però non per nulla ho chiesto varare un comitato, io l'ho chiamato dei saggi, poi questa parola non è piaciuta, si chiamerà in un altro modo, per fare una verifica esatta sui costi, su che finanziamenti, su quali finanziamenti, tenuto conto che questa è la mia materia come presidente della commissione politiche comunitarie, abbiamo dei vincoli di bilancio seri fissati dall'Europa e abbiamo anche problemi di indebitamento. Io credo che certe soluzioni, adesso le ipotizzo così in maniera molto avventurosa, c'è una cassa depositi e prestiti, mutui di una certa lunghezza con interessi che insomma è lo Stato che prende gli interessi per mutui che fa lo Stato, in poche parole. Beh, insomma, io credo sia una strada praticabile a condizione che, e sono due, ci sia un'indicazione precisa dei benefici, quali PIL, per alzare di 2 centesimi, 1 centesimo il PIL in questo momento, i problemi che ci sono, è un Olimpiadi del 0,4, 0,5, 0,6%, occupazione e rilancio di un settore che è in regressione, come tanti altri, ma particolare, che è quello dell'industria delle costruzioni. Quarto, si potrebbe varare un progetto della migliore industria del paese, o meglio, che dovrebbe essere la migliore industria, che è quella del turismo, che francamente forse in passato non ha avuto grandi slanci. Certo. Anche questo problema della delega alle regioni, uno gira il mondo, trovate, visitate la provincia di, insomma, ecco qui. Ecco, detto questo, il rapporto tra costi e benefici, se tornano, e questo ce lo vuol dire questo comitato dei saggi, possiamo presentarci sereni al Parlamento per chiedere una riflessione che non sia solo politica, altrimenti con l'area che tira, e anche al paese e all'opinione pubblica. Una cosa, lei è anche deputato PDL, su Montezemolo c'è stato anche, così diciamo, una specie di pregiudizio, diciamo, un po' anche politico. Lei pensa di risolverlo, di riuscire a essere bipartisan? Ma guardi, perché dice bipartisan? Io sono convinto di riuscire a essere tripartisan, quasi partisan, nel senso che questo me l'ha insegnato lo sport per 60 anni. Nella mia commissione, voglio dire, funziona, parliamo di sport, le Olimpiadi, e francamente, ecco, per questo mi è dispiaciuto qualche colloquio preliminare che ho avuto con autorevoli rappresentanti dell'opposizione, e li ho visti molti ostili, non nei miei confronti, questo sia chiaro, no? L'ho anche detto l'onorevole Melandi, ma nei confronti dei rapporti che hanno con l'amministrazione comunale. Beh, io insomma, comunque questo è l'impegno principale che all'inizio mi assumo, cioè vedere di recuperare il più possibile una unità di intenti, e questo è importante per il paese, no? Certo. Quindi spero di potercela fare, ma è chiaro che non dovrò lavorare solo in questa direzione. Il nostro paese non è che attraversa uno dei momenti più brillanti. È chiaro che nel 20, vabbè, saranno altri tempi, però questo può essere un segnale positivo per l'Italia. Ma guardi, le dico quello che mi ha detto il collega spagnolo, il collega del CIO, il giovane Samaras, il quale mi ha detto, ma sembrerà assurdo che la Spagna proponga una candidatura, noi che siamo tre pigs, come le sa, noi siamo un po' nel guado. Bene, questo segnale dà la sensazione, innanzitutto è una speranza per il paese, vuol dire che pensiamo di guardare al futuro con maggiore fiducia. In secondo luogo, se nel 2020 le cose vanno sempre peggio, qui non è che chiude solo la speranza Olimpiadi, chiude proprio l'esercizio dell'Europa, voglio dire, no, non è pensabile. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci all'indirizzo mail abbordocampo@radio24.it e dialogare con noi anche attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sul nostro sito web. L'appuntamento è per domenica prossima, come d'abitudine alle 14.30, e in replica il sabato mattina alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.